Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. A fine novembre l'Osservatorio Agenda Digitale della School of Management del Politecnico di Milano ha presentato, come ogni anno, il rapporto sullo stato dell'agenda digitale italiana. Dell'arretratezza del paese quanto a infrastrutture e cultura informatica e di come questo poi pesi anche sulla sua competitività si parla ormai da tempo, ma il rapporto di quest'anno sembra segnalare che qualcosa, insomma, finalmente sta cambiando. Ne parliamo con Alessandro Perego, che è direttore scientifico degli osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano. Buonasera Perego. Buonasera, buonasera a voi. Allora, questo tema della digitalizzazione è sterminato. Partiamo dalla pubblica amministrazione, che è un po' il cuore del problema, visto che è sempre andata a traino su questo terreno, mentre al contrario dovrebbe essere lei a trainare, no? il paese verso, insomma, livelli di innovazione il più elevati possibile. Ecco, qui però voi sembra che fotografiate finalmente un punto di svolta. Beh, direi proprio così, nel senso che finalmente da fine dello scorso anno abbiamo un documento che descrive la strategia per la crescita digitale del paese. È finalmente un documento esplicito, con alcuni punti di debolezza. Non è un documento completo, c'è ancora tanto da fare, ma è un punto chiaro, esplicito, in cui si prova a descrivere gli elementi essenziali della strategia per la digitalizzazione. E poi esiste un cambio importante di marcia, diciamo, dell'Agenzia per l'Italia Digitale, cioè quell'agenzia a cui è demandato un po' il compito di fare un po' da regista del cambiamento dell'agenda digitale sia della pubblica amministrazione che del paese. Diciamo che c'è un forte orientamento alla fattiva esecuzione da parte del nuovo direttore, che è entrato in carica da marzo circa di quest'anno. Ecco, sempre rimanendo almeno per ora sulla pubblica amministrazione, quali sono i pilastri dell'agenda digitale e a che punto siamo? Diciamo che i pilastri dell'agenda digitale erano già stati tracciati qualche anno fa intorno al governo Monti. In quella fase erano stati identificati, diciamo, tre pilastri fondamentali, che erano da una parte la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione. Questo come un esempio emblematico di come si possono digitalizzare i processi amministrativi di relazione con la pubblica amministrazione. Diciamo che dal 6 giugno del 2014 e poi dal 31 marzo del 2015, due passi fondamentali, sì, in cui è entrato in obbligo la fatturazione elettronica, prima verso la PA centrale e poi verso la PA locale. Anche locale. Diciamo che la fatturazione elettronica è tecnicamente un processo completato, ecco, rimane da completare l'uso della fattura elettronica in modo corretto all'interno della pubblica amministrazione. E poi è un sistema che si spera si estenda anche ai privati, no? Che potrebbero benissimo fare uso di questo strumento. Passiamo al secondo pilastro. Il secondo pilastro era il sistema pubblico di identità digitale, il cosiddetto SPID, o anche okay. PIN unico, come lo chiama identità digitale unica, cioè il fatto che noi finalmente avremo una login e una password, detto brutalmente, che ci consentono di utilizzare tutti i servizi della pubblica amministrazione. Questa sarebbe la logica, no? E non solo i servizi della pubblica amministrazione, anche i servizi di soggetti privati che intendessero aderire allo SPID, compagnie di telecomunicazioni, banche, ma qualsiasi tipo di servizio web che decide di utilizzare questo tipo di sistema. Da questo punto di vista gli aspetti tecnici sono molto avanzati, adesso si tratta di entrare a regime con pubbliche amministrazioni che aderiscono a questo sistema. E che poi rilascino questa identità digitale unica. A questo punto, no? Esattamente. Ci siamo questo. Ormai però. Ci siamo ormai, ci sono sostanzialmente degli operatori cosiddetti identity provider che si stanno certificando con l'AGID. Diciamo che con il primo semestre del 2016 il sistema dovrebbe entrare in funzione in maniera significativa, con diverse pubbliche amministrazioni che vi aderiranno. Terzo pilastro. Il terzo pilastro è l'anagrafe nazionale della popolazione residente. Qui si tratta evidentemente di correggere una situazione di frammentazione assoluta di queste anagrafi della popolazione residente, che sono sparpagliate negli 8.000 comuni del paese. Qui l'idea di arrivare a un database unico. Anche questo è un progetto fondamentale, perché è emblematico di una pubblica amministrazione che è capace di dialogare tra le sue componenti. È la famoso motivo per cui noi ogni volta dobbiamo rimettere sempre i nostri dati anagrafici, no? Ce li chiedono in continuazione, così ci sono 1.000 copie, e invece qua si tratterà di averne una ufficiale che vale per tutto, per tutte le pratiche. Assolutamente, no? Questo lo si fa su questo database, dopodiché è emblematico di di un processo di integrazione, certo, no? Nel back-end, cosiddetto back-end della pubblica amministrazione. E poi vi sono altre due priorità un po' più recenti, diciamo così, come attenzione, che sono i sistemi di pagamenti elettronici, il cosiddetto PagoPA, che fornisce a cittadini e imprese la possibilità di effettuare pagamenti in modalità elettronica verso la pubblica amministrazione, e questo è un progetto già piuttosto avanzato, cioè entro dicembre del 2015 le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad aderire a questo sistema e quindi perfetto, accettare pagamenti elettronici. E poi il tema, uno dei temi fondamentali, sì, che è quello della banda ultralarga, nel quale ovviamente il progetto è molto più lungo, dal 2014 al 2020. E qui si tratta di cablare con la famosa fibra ottica una buona parte del paese che attualmente non ha questo tipo di collegamento sostanzialmente. Certamente, non solo con la fibra ottica, con diverse tecnologie possibili, con l'uso di risorse pubbliche e anche però di risorse private. Va bene Perego, ci fermiamo qui, ma continuiamo domani sera a parlare sempre di agenda digitale. Buona serata. Buona serata a voi. A domani.